Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Ma torniamo a Masha. Arrivammo in Germania e là, rispettosamente, ci internarono in un campo. In genere le coppie convivevano senza la sanzione della cerimonia nuziale. Chi aveva bisogno di cerimonie del genere in tempi simili? Ma la madre di Masha volle a tutti i costi che ci sposassimo, secondo le leggi di Mosè e di Israele. Il contrabbandiere, probabilmente, le concesse il divorzio, o forse non lo aveva mai sposato. Non avrei potuto infischiarmene di più. Volevo tornare a dedicarmi al mio lavoro scientifico al più presto possibile e inoltre non sono religioso. Lei voleva le nozze, accettai di sposarla. Altri nel campo avevano cominciato a fare affari, il contrabbando. L'esercito americano portava in Germania merci di ogni genere ed essi le distribuivano. Gli ebrei hanno sempre fatto affari dappertutto, persino ad Auschwitz. Se esistesse un inferno, farebbero affari anche là. Non lo dico con malignità. In quale altro modo avrebbero potuto regolarsi? Le organizzazioni assistenziali distribuivano a malapena l'indispensabile per sopravvivere dopo tutti quegli anni di denutrizione, di fame. La gente voleva mangiar bene e anche vestirsi in modo decente. Ma io che cosa avrei potuto fare, dato che per indole non sono un affarista? Rimanevo in casa e tiravo avanti con le razioni distribuite dal comitato misto. I tedeschi non mi consentivano di avvicinarmi a un'università, a un laboratorio. C'erano alcuni altri oziosi come me e leggevamo libri oppure giocavamo a scacchi. Questo non piaceva a Masha. Vivendo con il contrabbandiere, si era abituata ai lussi. Al momento di conoscermi, l'aveva colpita il fatto che ero uno scienziato, ma questo non la soddisfò a lungo. Cominciò a trattarmi come una pezza da piedi. Mi fece scenate tremende. Sua madre, devo dirlo, è una santa. Aveva sofferto le pene dell'inferno ed era rimasta pura. Io le volevo un gran bene. Quanto spesso capita di incontrare una santa. Anche il padre di Masha era stato un brav'uomo, una specie di scrittore, uno studioso dell'ebraismo. A chi somigli lei, non lo so. Semplicemente non sapeva resistere alle tentazioni della gaiezza, ovunque potesse trovarla. I contrabbandieri non facevano che organizzare feste, dare balli. In Russia si erano abituati alla vodka e a tutte le sue gioie. Quando avevo conosciuto Masha a Lublino, mi ero fatto l'idea che fosse fedele al contrabbandiere, ma ben presto apparve chiaro che aveva avventure di ogni genere. Gli ebrei deboli erano stati sterminati e i superstiti avevano costituzioni di ferro, anche se, come si può constatare adesso, erano anch'essi individui distrutti. I loro guai affiorano ora alla superficie. Tra 100 anni i ghetti verranno idealizzati e tutti si faranno l'idea che fossero abitati soltanto da santi, ma non potrebbe esistere una menzogna più grande. In primo luogo, quanti santi ci sono in ogni generazione? E in secondo luogo, quasi tutti gli ebrei sono feriti. E tra quelli riusciti a sopravvivere esisteva un impulso predominante, salvarsi ad ogni costo. In certi ghetti mandavano avanti addirittura un cabaret e bisognava scavalcare i cadaveri per entrarci. Secondo la mia teoria, il genere umano sta peggiorando, non migliorando. Io credo, per così dire, in una evoluzione a rovescio. L'ultimo uomo sulla Terra sarà al contempo un criminale e un pazzo. Immagino che Masha le abbia detto di me le cose peggiori. In realtà fu lei a sfasciare il nostro matrimonio. Mentre correva la cavallina, io, come un idiota, me ne stavo in casa con sua madre. Soffriva di un disturbo agli occhi, povera donna, e le leggevo ad alta voce il Pentateuco e i giornali yiddish americani. Ma per quanto tempo avrei potuto continuare a condurre un'esistenza simile? Non sono vecchio nemmeno adesso, e a quei tempi ero nel fiore degli anni. Stavo inoltre cominciando a conoscere altre persone e a stabilire contatti con gli ambienti scientifici. Vennero a farci visita dall'America professoresse, e ci sono molte donne colte in questo paese, professoresse che cominciarono a interessarsi a me. Mi disse apertamente che, poiché Masha mi lasciava solo per tutto il giorno e per una buona metà della notte, non avevo alcun obbligo nei suoi confronti. Shifrapua mi vuol bene anche oggi. Una volta l'ho incontrata per la strada e mi ha abbracciato, baciato. Continua a chiamarmi figlio mio. Quando mi arrivò il visto per l'America, Masha, all'improvviso, si riappacificò con me. Il visto mi era stato concesso non come profugo, ma come scienziato. Ero stato io a ottenerlo, non lei. Masha sarebbe dovuta andare in Palestina. Io ero conteso da due famose università americane. In seguito fui estromesso dall'una e poi dall'altra a furia di intrighi. Non starò adesso ad approfondire la cosa perché non c'entra con il nostro discorso. Dove ero arrivato? Sì, l'America. Che cosa avrebbe fatto Masha in Palestina? Sarebbe finita in un campo di profughi non molto migliore di quello in Germania. Sua madre era malata e il clima laggiù l'avrebbe finita. Non voglio farmi passare per un santo. Poco dopo il nostro arrivo qui, ebbi una relazione con un'altra donna. Voleva che divorziassi da Masha. Era un'americana, vedova di un milionario, e si dichiarava disposta ad adattarmi un laboratorio in modo che non dovessi dipendere da un'università. Io, però, per una ragione o per l'altra, non volevo divorziare. Tutto deve maturare, anche il cancro. Non mi fidavo più di Masha, è vero. E non appena arrivati qui, lei aveva ricominciato da capo. Ma sembra che sia possibile amare anche senza avere fiducia. Una volta incontrai un vecchio compagno di scuola, mi disse apertamente che sua moglie viveva con altri uomini. Quando gli domandai come potesse sopportarlo, si limitò a rispondere: «Si può sormontare la gelosia. Si può sormontare tutto, tranne la morte. Non gradirebbe un'altra tazza di caffè? No?» Sì, tutto si può sormontare. Non so esattamente come Masha abbia conosciuto lei e non me ne importa. Che differenza fa? Io non dico che lei abbia colpa. Non mi ha mai giurato fedeltà e del resto a questo mondo arraffiamo tutti quello che possiamo. Io mi impadronisco della roba sua, lei si impadronisce della mia. Il fatto che ci fu qualcuno prima di lei qui in America lo so con certezza, perché l'ho conosciuto. Non mi ha fatto credere. Masha cominciò a chiedermi il divorzio dopo aver conosciuto lei, ma siccome mi aveva rovinato l'esistenza, ritenevo di non avere alcun obbligo nei suoi confronti. È colpa sua se io sono ancora disoccupato. Dopo il naufragio del matrimonio, tentai di riannodare i fili della mia carriera, ma ero così nervoso e che non mi riusciva di concentrarmi, di lavorare seriamente. Cominciai a odiarla, sebbene non sia nella mia natura odiare. Come vede, me ne sto seduto qui con lei da amico e le auguro soltanto ogni bene. Il mio ragionamento è semplice. Se non si fosse trattato di lei, si sarebbe trattato di qualcun altro. Se io fossi colpevole come Masha cerca di dipingermi, sua madre mi avrebbe forse mandato una cartolina d'augurio di buon anno per Rosh Hashanah con una scritta di sua mano? Bene, ora arrivo al punto. Poche settimane fa Masha mi telefonò chiedendomi di incontrarci. Che cosa è accaduto? Domandai. Lei tergiversò e in ultimo le dissi di venire a casa mia. Venne tutta agghindata, pronta allo sterminio, come si suol dire. Avevo già saputo di lei, ma cominciò a raccontarmi da capo l'intera storia, come se fosse cominciata soltanto il giorno prima, con tutti i particolari. Si era innamorata di lei, aspettava un bambino, voleva metterlo al mondo, voleva che un rabbino celebrasse il matrimonio per sua madre. Da quando in qua ti preoccupi tanto per tua madre? Domandai. Ero di pessimo umore. Lei sedette, accavallò le gambe come un'attrice che posa per una fotografia. Le dissi: ti sei comportata come una prostituta quando vivevi con me, ora paga lo scotto. Quasi non protestò. Siamo ancora marito e moglie, disse. Credo che sia consentito. Ancora oggi non so perché feci una cosa simile, per vanità forse. Poi conobbi Rabbi Lampert, lui mi parlò di lei, della sua erudizione, degli anni durante i quali era rimasto nascosto in un fienile, e tutto divenne chiaro, dolorosamente chiaro. Mi resi conto che Masha l'aveva catturata nella sua rete proprio come aveva fatto con me, perché poi si senta attratta dagli intellettuali è un interrogativo che è il caso di porsi, sebbene, senza dubbio, sia andata a letto anche con dei bifolchi. Questa, in breve, è la storia. Ho esitato a lungo prima di decidermi a raccontargliela, ma sono pervenuto alla conclusione che lei doveva essere messo sull'avviso. Spero almeno che il bambino sia suo. Ma lasciarla di amarla davvero. Ma con una creatura come quella non si può mai sapere. Non la sposerò, disse Herman. Pronunciò le parole con voce così bassa che Leon Topschiner dovette portarsi una mano a coppa intorno all'orecchio. Come? Senta, c'è una cosa della quale voglio essere sicura. Non le dica del nostro incontro. In realtà avrei dovuto parlarle molto prima, ma, come vede, non sono un uomo pratico. Faccio certe cose e finisco con il cacciarmi in ogni sorta di guai. Se Masha sapesse che le ho detto quanto è accaduto, la mia vita sarebbe in pericolo. Non gliene parlerò. Lei sa che non è obbligato a sposarla. È proprio il tipo da avere un bastardo. Se c'è qualcuno da compassionare, quello è lei. Sua moglie è morta? Sì, è morta, mentì Herman. Anche i suoi figli? Sì. Il rabbino mi ha detto che abita con un amico e che non ha il telefono, ma io ho ricordato di aver visto il suo numero telefonico nel taccuino di Masha. Lei ha l'abitudine di circondare i numeri di telefono importanti con circoli, disegnini, di fiori, di animali. Beh, intorno al suo numero aveva disegnato un intero giardino di alberi e di serpenti. Come mai si trovava a Brooklyn oggi, se abita a Manhattan? Domandò Herman all'improvviso. Ho degli amici qui, rispose Leon Topschiner, mentendo manifestamente. «Bene, ora devo andare», disse Herman. «Grazie infinite». «Perché tanta fretta? Non se ne vada ancora. Io ho pensato soltanto al suo bene. In Europa la gente era abituata a condurre vite segrete. Forse la cosa era giustificata laggiù. Ma questo è un paese libero e lei non deve nascondersi a nessuno. Qui può essere un comunista, un anarchico, tutto quello che vuole. Esistono certe sette religiose i cui adepti tengono in mano serpenti velenosi quando pregano a causa di un certo verso del libro dei Salmi. Altri vanno in giro nudi. Anche Masha nasconde tutto un fardello di segreti. Il guaio è che quelli che hanno segreti li tradiscono. L'uomo tradisce se stesso. Masha mi ha detto cose che poteva fare a meno di dirmi e che altrimenti io non avrei mai scoperto. Che cosa le ha detto? Tutto quello che ha detto a me lo dirà anche a lei. È soltanto questione di tempo. La gente ama esibire ogni cosa, anche un'ernia. Non ho bisogno di farle sapere che Masha non dorme di notte, fuma, parla. Un tempo la supplicavo di lasciarmi dormire, ma il demonio in lei non le consente riposo. Se avesse vissuto nel Medioevo, Masha sarebbe stata senza dubbio una strega e avrebbe volato su un manico di scopa la notte del sabato per recarsi a un convegno con il demonio. Ma il Bronx è un luogo dove il demonio morirebbe di noia. Anche la madre è una strega a modo suo. Ah, una strega buona, per metà rebuzzin, per metà indovina. Ogni femmina se ne sta accoccolata nella propria ragnatela, tessendo come un ragno. Quando per caso una mosca passa di lì, viene catturata. Se lei non fuggirà, le succheranno anche l'ultima goccia di vita. Riuscirò a fuggire, a rivederla. Possiamo diventare amici. Il rabbino è un selvaggio, ma ama la gente. Ha conoscenze a non finire e può esserle utile. se l'è presa con me perché non voglio trovare l'elettricità e la televisione nel primo capitolo della Genesi, ma riuscirà a scovare qualcuno disposto a farlo. Fondamentalmente è uno Yankee, sebbene io creda che sia nato in Polonia. Il suo vero nome non è Milton, ma Melech. Firma un assegno per ogni cosa. Quando arriverà nell'aldilà e dovrà rendere il corpo, ti tirerà fuori il brevetto degli assegni. Però, come soleva dire mia nonna, i sudari non hanno tasche. Il telefono squillò, ma Herman non rispose. Contò gli squilli e tornò a concentrarsi sulla Gemara. Sedeva al tavolino, coperto da un tappeto festivo, studiando e cantilenando, come era stato abituato a fare nella casa di studio a Chifkaf. La Mishnah. E questi sono i doveri che la moglie compie per il marito. Macina, cuoce al forno, lava, cucina, allatta il bambino, rifà il letto e fila la lana. Il telefono ricominciò a squillare e questa volta Herman non contò gli squilli. L'aveva fatta finita con Masha. Aveva giurato di rinunciare a tutte le ambizioni terrene, di rinunciare alla licenziosità nella quale era precipitato dopo essersi allontanato da Dio, dalla Torah, dal giudaismo. Era rimasto alzato quella notte cercando di analizzare l'ebreo moderno e il suo sistema di vita. Una volta di più era pervenuto alla stessa conclusione. Se un esempio ebreo si discostava anche soltanto di un passo dallo Shul Haran Aruch, veniva a trovarsi spiritualmente nella sfera di tutto ciò che è indegno: fascismo, bolscevismo, assassinio, adulterio, ubriachezza. Che cosa avrebbe potuto impedire a Masha di essere quello che era? Che cosa avrebbe potuto cambiare Leon Tortschiner? Chi e che cosa sarebbe stato in grado di controllare gli appartenenti ebrei alla GPU, i ladri, gli speculatori, gli informatori? Che cosa avrebbe potuto impedire a lui, Herman, di affondare ancor più profondamente nel fango in cui si trovava invischiato? Non la filosofia, non Berkeley, Hume, Spinoza, né Leibniz, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl. Tutti questi filosofi predicavano una sorta di moralità che non aveva il potere di aiutarti a resistere alle tentazioni. Si poteva essere un seguace di Spinoza e un nazista. Si poteva essere versati nella fenomenologia di Hegel e praticare lo stalinismo. Si poteva credere nelle monadi, nello spirito del tempo, nella volontà cieca, nella cultura europea e, ciò nonostante, commettere atrocità. Durante la notte aveva fatto l'inventario di se stesso. Stava ingannando Masha e Masha ingannava lui. Tutti e due avevano lo stesso scopo: trarre dalla vita più piacere che fosse possibile nei pochi anni rimasti loro prima delle tenebre, della fine ultima, prima che l'eternità, senza ricompense, senza castighi, senza volontà, li raggiungesse. Dietro questa visione suppuravano l'inganno e il principio che la forza è diritto. Ci si poteva sottrarre a tutto ciò soltanto rivolgendosi a Dio. E a quale fede avrebbe dovuto ricorrere? Non a una fede che in nome di Dio aveva organizzato inquisizioni, crociate, guerre sanguinose. Esisteva una sola via di scampo per lui: tornare alla Torah, alla Gemara, ai libri ebraici. Ma i suoi dubbi? Anche se un uomo dubita dell'esistenza dell'ossigeno, deve ugualmente respirare. Si può negare la gravità, ma bisogna ugualmente camminare per terra. Dato che Herman stava soffocando senza Dio e la Torah, doveva servire Dio e studiare la Torah. Si dondolò avanti e indietro, cantilenando. Il telefono squillò di nuovo. Jadwiga entrò dalla cucina con il ferro da stiro in una mano e una scodella piena d'acqua nell'altra. «Perché non rispondi al telefono?» «Non risponderò mai più al telefono durante una festività. E se tu vuoi diventare ebrea, non stirare il giorno di Shemini Atzeret. Sei tu a scrivere durante il sabato, non io. Non scriverò più durante il sabato se non vogliamo diventare come i nazisti. Dobbiamo essere ebrei. Verrai con me al Kufot oggi?» «Di Hakafot, non Kufot. Sì, sì, verrò con te. Dovrai andare anche al bagno rituale se vuoi diventare una donna ebrea.» «Quando è che diventerò ebrea?» «Ne parlerò con il rabbino. Ti inserirò come si dice tante preghiere. Avremo un bambino? Se Dio lo vuole, lo avremo. Jadwiga si imporporò in viso, sembrava sopraffatta dalla gioia. «Che cosa devo fare con il ferro da stiro?» «Mettilo via, fino a dopo le festività». Jadwiga si trattenne lì ancora qualche momento, poi tornò in cucina. Hermann si palpò il mento, non si era sbarbato e la barba cominciava a crescergli. Aveva deciso che non poteva più lavorare per il rabbino, in quanto quel lavoro era un inganno. Avrebbe dovuto trovare un posto di maestro o fare qualcos'altro. Doveva divorziare da Tamara. Quello che era stato fatto da centinaia di generazioni di ebrei in passato, doveva farlo anche lui. Il pentimento? Masha non si sarebbe mai pentita. Era una donna moderna fino in fondo, con tutte le ambizioni e le illusioni della donna moderna. La cosa più savia da farsi per lui sarebbe stato andarsene da New York, stabilirsi in uno stato lontano, altrimenti sarebbe sempre stato tentato di tornare da Masha. Il solo pensarne il nome lo eccitava. Negli squilli ripetuti del telefono udiva l'angoscia di lei, la sua dissolutezza, l'affetto col quale gli era legata. Leggendo i commenti di Rashi sul Talmud, non riusciva ancora a intuire che dopo il problema si intromettessero le sue osservazioni irritanti, il suo disprezzo per coloro che la desideravano, che le correvano dietro come segugi dietro una cagna in calore. Senza alcun dubbio, lei sarebbe stata in grado di dargli una spiegazione sul proprio comportamento, era capace di dichiarare Kasher un porco e di esporre una teoria plausibile per dimostrare la sua tesi. Hermann continuò a sedere dinanzi alla Gemara, fissando le lettere, le parole. Quegli scritti erano la famiglia e la patria. In quelle pagine si trovavano i suoi genitori, i suoi nonni, tutti i suoi antenati. Quelle parole non potevano essere tradotte in modo adeguato, si poteva soltanto interpretarle. Nel contesto del discorso, anche una frase come «la donna esiste per la sua bellezza» aveva un profondo significato religioso, riportava alla mente la casa di studio, il settore della sinagoga riservato alle donne, le preghiere penitenziali, le lamentazioni per i martiri, il sacrificio della propria vita nel santo nome, non i cosmetici e la frivolezza. Era mai possibile spiegare queste cose a chi non fosse ebreo? Gli ebrei prendevano le parole dalla piazza, del mercato, dall'officina, dalla camera da letto e le santificavano. Nel Gilagrama, le parole che significavano ladro, predone, avevano un altro sapore. Associazioni diverse da quelle che venivano ad esse attribuite nel polacco o nell'inglese. I peccatori della Gemara rubavano e frodavano esclusivamente perché gli ebrei avessero una lezione da imparare, perché Rashi potesse fare commenti, perché Tasafot potesse scrivere i grandi super commenti su Rashi, perché i dotti maestri potessero cercare risposte ancora più limpide e scoprire nuove sottigliezze, nuove intuizioni. Persino gli adoratori di idoli, che vi sono menzionati, adoravano quelle divinità perché un trattato talmudico esponesse i pericoli dell'idolatria. Il telefono squillò di nuovo, ed Hermann immaginò di udire la voce di Masha attraverso gli squilli. «Ascolta perlomeno quello che ho da addurre a mia difesa!» In base a tutte le leggi della giustizia, entrambe le parti avevano il diritto di essere ascoltate. Hermann, pur rendendosi conto che veniva meno di nuovo ai suoi giuramenti, non riuscì a impedire a se stesso di alzarsi e di sollevare il ricevitore. «Pronto!» Seguì un silenzio all'altro capo del filo. A quanto pareva, Masha non riusciva a parlare. «Chi è?» domandò Hermann. E nessuno rispose. «Sgualdrina!» Hermann udì il suono di un ansito. «Sei ancora vivo?» domandò Masha. «Sì, sono vivo!» Seguì un altro lungo silenzio. «Che cosa ti è accaduto?» «È accaduto questo! Ho scoperto che sei un essere spregevole!» Hermann stava urlando, non riusciva a riprendere fiato. «Credo che tu sia impazzito!» rispose Masha. «Maledico il giorno che ti ho conosciuta, baldracca!» «Dio mio, che cosa ho fatto?» «Hai pagato il divorzio prostituendoti!» Sembrava a Hermann che non fosse la sua voce a gridare. In quello stesso modo suo padre soleva rimproverare un ebreo senza fede. «Demonio! Apostata!» Era l'antico grido di protesta ebraico contro coloro che violavano i comandamenti. Masha cominciò a tossire. Sembrava che stesse soffocando. «Chi ti ha detto questo? Leon?» Hermann aveva promesso a Leon Tortschiner di non fare il suo nome. Ciò nonostante non poteva mentire adesso. E non rispose. «È un demonio depravato, Leon! Potrà essere depravato, ma ha detto la verità. La verità è che me l'ha chiesto e io gli ho sputato in faccia. Finiscila! Sta imprecando come una pescivendola. Masha era scossa dai singhiozzi.